perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa d'Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido. Lo uccido! E lei invece non ha perso tempo. Ha preso subito la palla al balzo. L'ho visto uscire mano nella mano con quell'africano che non parla neanche bene l'italiano, ma si vede che si fa capire bene quando vuole. Tutte le sere ne accompagna a casa una diversa. Chissà che cosa le racconta. Per me la macchina che c'ha che conta. Ah! Che preoccupata di dirmi almeno qualche cosa, che so una scusa, e si era già dimenticata di quello che mi aveva detto prima. Mi puoi portare a casa questa sera? Abito fuori Modena, Modena. Ti porterei anche in America. Ho comperato la macchina apposta e mi ero già montato la testa. Avevo fatto tutti i miei progetti. Non la portavo mica a casa. Se la sposavo non lo so, ma cosa conta? Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Sono convinto che se non ci fosse stato lui mi avrebbe detto sì. Na na na na na na.